Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Ah, ci siamo, siamo in diretta, vero regia? Sì, ma io mi sarei aspettato la sigla estiva, insomma, oggi veramente siamo in maniche corte, in pantaloncini corti, infradito. Ma stia zitto Paoletti, che fino a ieri aveva il giubbotto. Ma è fino alla scorsa settimana, insomma, ma vorrà dire. Ma stia zitto Paoletti, ecco. No, mi facci il piacere. Va bene, insomma, lei mi maltratta sempre, andrò alla protezione animali a... Ma non sia ridicolo, non sia ridicolo. Allora, buongiorno, eh? Buongiorno a lei, buongiorno. Anche oggi la vedo puntuale, sì, in tenuta estiva, giustamente, oggi fa veramente caldo. E allora andiamo a salutare i nostri cortesi, così, ascoltatori al di là, ovviamente, dell'apparecchio elettronico con cui ci ascoltano. Oggi è domenica 28 maggio, ho puntata numero 21, dove preso per poco qua. No, allora, stavo leggendo, no, è la numero 21, volevo dire, puntata di Easy Pop, 28 maggio 2023, Easy Pop, 100% di musica. Quante sono ovviamente queste dita, Paoletti? Sono, vabbè, se lei... No, gli ascoltatori non possono vedere che gesto ha fatto il nostro bolognese. Comunque, bando alle ciance, devo dire che oggi è praticamente l'ultima domenica di maggio, c'è già questo assaggio estivo, quindi mi attenderei per la prossima settimana. La sigla estiva. Se vuoi la metto anche dopo, quando iniziamo la seconda parte. Ma è un'idea, se lei se la sente, così di... Se insiste proprio così tanto. Ma io perché estate... perché parlo d'estate? Perché qua veramente c'è di tutto, nel senso che siamo prossimi all'estate, quindi vedo tante novità discografiche, graditi ritorni musicali e quindi insomma c'è questo inno all'estate e questo è il periodo in cui naturalmente si esce col pezzo estivo. E allora uno dei tanti è il graditissimo ritorno di Garbo, con cui ne avevamo già parlato, è uscito il suo album dal titolo Nel Vuoto, ci presenta il singolo, il primo estratto da questo album interessantissimo che si intitola come Pietre. Vado a dire che questo album era attesissimo, riapre un nuovo percorso musicale di Garbo stesso, che dice più o meno così: visto che c'è un vuoto culturale e sociale enorme in questo momento, bisogna darsi una regolata e, come dire, anche col dare largo, immagino, però dovrebbe no, bisognerebbe anche come. Non lo so, bisognerebbe reagire a questa sorta di smarrimento passivo e andare culturale verso delle nuove rivoluzioni che non so se sono rivoluzionarie o meno, però insomma a iniziare dai social. Adesso quindi questo è interessantissimo. Mi auguro di sì, insomma, di averlo anche lui nel nostro salotto musicale, quello di approfondimento, lo spin-off, perché no? Sarebbe bello che ci spiegasse questo album splendido, perché anche va detto che la critica musicale lo ha accolto con grande entusiasmo. Noi ascoltiamo, questo è Come Pietre dall'album Nel Vuoto, Garbo. Guarda quanta gente, la pesa poco niente, dentro le città c'è tanta polvere che occupa la vita, che riempie i tuoi pensieri fatti di miraggi, bruciano e cenere. vita ha solo un grido infinito. Garbo come pietre. Beh, devo dire che al secondo, terzo ascolto mi piace sempre di più. Beh, diciamo che si appresta meglio quello che sono le parole. Assolutamente, vanno sottolineate non l'aspetto musicale ma anche le parole, che sono davvero come pietre. Qui ritornato in compagnia di Roberto Colombo, il suo primo produttore discografico, e dentro c'è anche così la manina di Luca Urbani, già dei Soerba, Eugène, quindi insomma di fidatissimi, bravissimi cantautori nel panorama della New Wave italiana, e quindi complimenti a loro. Peccato, Paoletti, che molti non lo conoscono. Mi ricordo la nostra collega Maglia, che quando gli chiedevo chi era Garbo non lo sapeva, ma ci sta. Beh, ma insomma si tratta di una staffetta, no? Bisogna portare questi personaggi così ai giovani, e quindi mi sembra finestra più che... perché passa un aereo. Ah, ok, quindi il solito aereo del quarto d'ora, regia. Beh, anche di più, ne passa uno in 5 minuti. Va bene, allora salutiamo anche Garbo in attesa appunto di una intervista, e a questo punto abbiamo la prossima sul piatto numero 2, abbiamo Engage, che è poi è un progetto musicale di un personaggio che appunto si fa chiamare Engage, che non è nuovo a opere discografiche, anzi lui è un turnista e poi è prestato appunto al mondo musicale, è un bravo musicista che ha accompagnato Antonello Cuomo, per esempio il diciamo sosia ufficiale di Antonello Venditti in più tour, e appunto Eugène unisce l'introspezione del cantautorato a cui siamo abituati con la nuova musica indie pop e anche rock. Quindi direi di ascoltarci il suo singolo, si intitola Mac Drive, giusto? Ecco, giusto. Engage. Vorrei vivere come fossi in un film e cantare le canzoni, chi le sente poi bling. Ma è da un po' che la mia vita sembra come il McDrive, ti aspetti quelle cose che poi non trovi mai. Vorrei scriverti 100.000 poesie, ma quel che provo non ti arriva mai nei DM. Sei come quando su un treno incroci uno sguardo e benedici ogni minuto di ritardo. Baciami come fanno a Sanremo, mentimi tipo noi dureremo. Ho un debole per le storie sbagliate, ma cazzo tu baby sai di estate. Vorrei partire, viaggiare, New Orleans o Shanghai, e fare tutte quelle cose che qui non farei mai. Trovare un bel muro e scrivere scemo chi legge, ridere come uno che di anni ne ha 7. Vorrei che al fatto che torni io smetta di credere, ma il mio cuore si ribella, chiama la cedere. Baciami come fanno a Sanremo, mentimi tipo noi dureremo. Per le storie sbagliate, ma cazzo, tu baby sai di estate. Mi tieni la mano anche quando sei online, amore a distanza, cuore come wifi. In frente le scene, io te FaceTime, dici quando e chi, ma me volerai. Perché la parte migliore di me nasce solo accanto. Sono le 4, ma io qui non dormo, aspetto un tuo messaggio con sto scritto. Engage con McDrive, beh, quasi un brano da compilation dance, Paoletti. Assolutamente, quindi un ragazzo che si occupa di musica a 360 gradi, perché insomma la fa lui, ma fa anche il turnista, e devo dire con ottimi risultati. Tra l'altro l'abbiamo visto al concerto del 1° maggio, se non sbaglio, del 2019-2020, quindi non è nuovo, ha partecipato con successo anche Sanremo Rock 2020 e ha pubblicato anche diversi singoli. Questo è il suo graditissimo ritorno per l'estate che sta avanzando. A proposito di estate, noi avevamo intervistato Alessio Del Freo un po' di tempo fa, poi per parlare ovviamente Negli approfondimenti di Easy Pop, quello che, esatto, lei piace tanto chiamarlo spin-off di non Easy so cosa Pop sia, mi ricordo uno spinone, lo spin-off. No, e invece è un approfondimento di un qualcosa che già c'è. In questo caso parlavamo di lui come youtuber, si dice così, vero? Certo che si dice così, e lui, esatto, è uno youtuber. Un youtuber anche seguito molto, perché ha ricostruito, pensate un po', tutta la storia di Canzonissima, di Festival Bar, ma non solo, Sanremo, e poi molto di anno, bravo, in anno Cantagiro, insomma tutti quegli eventi, Azzurro, insomma quegli eventi in cui si parlava di musica, dove la musica si respirava e dove sono stati grandi i protagonisti della musica italiana. Tutto questo finito ovviamente, perché non ci sono più gli spazi musicali. Tutto cambia. E beh, fatto sta che comunque anche lui ci aveva ben anticipato che stava lavorando a un nuovo lavoro, alla sua rientrée, perché lui è stato anche con successo anche il vocalist, se non sbaglio, di una rock band, forse heavy metal, se non sbaglio, sto parlando dei Wonderland, ma è anche, oltre che essere uno youtuber, è anche appunto un cantante, nonché autore, presentatore appunto di eventi. Se andiamo quindi avanti così non ci bastano 2 ore. Ritorniamo a parlare di Alessio Del Freo con il suo nuovo singolo che è una bomba, si intitola Disordine. Alzate il volume della radiolina. Nella mia mappa sei, è lì che cercavo te, per risparmiarmi un po', era più facile. Strade vie, dentro al traffico, amo il mio disordine mentale, ossessivo, essenziale. Odio un equilibrio precario, acido e chimico. Prima di tutto, soltanto il brutto, e consumare energia, anima, cuore, poesia. La tua musica rapisce pregiudizi, butto via. Amo il mio disordine mentale, ossessivo, essenziale. Odio un equilibrio precario, acido e chimico. Chissà se lo sai, che articolo sei, ma uguali mai, giudizi ne avrai, tu quanti ne vuoi, uguali mai. Nella mia mappa mentale cercavo una via d'uscita per risparmiare energia, anima, cuore, poesia. Amo, odio, amo, odio, amo il mio disordine. Disordine, io ricordo un brano, Disordine Perfetto, era Mietta. Questo è un pezzo, insomma, molto molto particolare. Tanti tipi di disordine. Sì, no, ma questo è sicuramente un bel brano che di volta in volta cattura tantissimo. È uscito anche il video, andatelo a vedere, mi raccomando, tutta una sorpresa. Disordine Alessio Del Freo, l'abbiamo suonato qui sui 103 e 100 modulazione di frequenza a Radio Città Fujiko. Un saluto a lui, a questo punto in voce e spazio a lei, Sonica, che ci presenta Bad Casino. Mentre giochi alla play, mi dici che non ci sei. Ti dico vado dai miei, non dirmi dove sei. Mi sento in Miami Vice, ora ti seguo nei guai. Adesso so dove stai, se mi scanno non te ne vai. Sì, ora lo so, ti cerco io baby. Sonica con Bad Casino. Beh, un altro brano che dovrebbe entrare quasi diritto nella compilation dance. Specifichiamo che cos'è la compilation dance: è appunto una compilation che viene lanciata intorno alla domenica vicino a Ferragosto di Easy Pop, ormai pluridecennale direi. Sì, un po' come le compilation di Italia Network degli anni 80, che piacciono tanto a me, e quindi così potete scoprire suoni per Ferragosto, no? Si può poi dare intorno alla domenica di Ferragosto, credo che fuoco sia il 13 polveri, agosto. Fuoco alle polveri con questi pezzi in cui ci si può divertire, si tiene sottofondo la cassettina, una volta si usava così, e via, insomma, come colonna sonora. A proposito, Sonica si è sentito, no? Un po' diciamo l'omaggio un po' a Madonna, un po' a Michael Jackson, sono tutti vari omaggi. Vari omaggi, insomma, tantissimi artisti degli anni 80, perché lei è una cultrice degli anni 80, nonché di Madonna, e si è sentito tantissimo questo sound che fa così la strizzatina d'occhio a quegli anni. Che dire, che insomma ha centrato l'obiettivo. Complimenti a lei. A questo punto invece, sempre per quanto riguarda le uscite di discografiche estive, abbiamo gli Autoradio, ci presenta Autoradio ci presenta Amore Mio, ve ne parlo fra poco, non andate via. Avere qualche distrazione, perdere anche un po' la direzione. Per fortuna oggi il tempo è dalla parte mia, qualche svago cosa vuoi che sia. Partirò però dopo che avrò sai chiamarmi, allora ti risponderò. Io ti risponderò. Oh, amore mio, non temere, perché sono in ritardo, però arrivo anche da te. Possibilità da sfruttare prima di domani, perdersi nel mondo e nella sua complessità, con una canzone da cantare che fa autostop fino all'autogrill, è già tutto un altro film. Se vorrai spiegarmelo, io ti risponderò. Io ti risponderò. Con un album all'oro attivo, eccoli qua, gli Audio Radio. Il loro primo album si intitolava Casta Diva e successivamente hanno licenziato anche questo nuovo album dal titolo Ultra Pop. Devo dire che questo Ultra Pop è ultra sfruttato, devo dire, questa cosa qui. Allora, col precedente singolo, Franco, Se Posso Essere, gli Autoradio hanno conquistato, pensate, numerose playlist Spotify, superando 30.000 visualizzazioni del videoclip in solo i 15 giorni. Io non so se è tanto o meno, però insomma di loro se ne parla. Sono 30.000 visualizzazioni. Beh, è un certo numero, dignitoso, insomma, dignitoso. Devo dire che con il passaparola e cultori un po' alla Elio e le Storie Tese, insomma, questo gruppo si è fatto ben conoscere e sono già al loro secondo album. Complimenti a loro, e quindi insomma questo è il loro singolo per che hanno scelto per questa estate. E a questo punto c'è un graditissimo ritorno anche per quanto riguarda la musica italiana. Per lui Luca Casali ci presenta Maestrale. C'è un mare in fiamme che luccica, l'estate calda del secolo. Maestrale che colpisce, tu mi riporti alla realtà, quest'aria gela le lacrime, l'onda gonfia e rompe il mare, settembre arriva che male fa, soffia il vento sulle nuvole, l'estate più non c'è. All'anima, cos'è che tu un'altra no? Batte il vento sulle sponde, batte il vento che non dorme, oltre la vita e la morte. Batte il vento sulle onde, batte il vento che dissolve, oltre la luce e le ombre. We'll be right back.

Dog e cat sitter, educazione, passeggiate, accudimento, visite a domicilio, asilo, corsi e stage, anche quando tu vai in vacanza. Maggiori info al 327 395 8183 o dogbo.it. La fisioterapia è una cosa seria, necessita di attrezzature all'avanguardia e di professionisti con una grande passione per la vostra salute. Noi del Poliambulatorio Descovich lo sappiamo bene. Abbiamo un'esperienza di 60 anni e siamo stati i primi a Bologna ad occuparci di fisioterapia. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, traversa di via Lame, facilmente raggiungibili anche in autobus. 051 649 4501 o prenota comodamente online dal sito, saltando il centralino e a qualsiasi ora su www.descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich. Con il tuo 5 per 1000 puoi fare un gesto di grande sollievo. Donalo alla Fondazione Hospice Ragnoli. Contribuirai al miglioramento della qualità della vita dei pazienti assistiti negli hospice della Fondazione, che diventa casa quando il paziente non può più restare a casa. La Fondazione Hospice, dal 2002, si impegna per migliorare la vita e alleviare le sofferenze dei pazienti con malattie in fase avanzata. Donare il 5 per 1000 è semplice. Basta firmare e indicare il codice fiscale della Fondazione Hospice. Maggiori informazioni sul sito fondhs.org. Farai insieme a noi un gesto di grande sollievo. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Eccoci qua, rientriamo in studio dopo il piccolissimo break pubblicitario. In studio Franco Paoletti che vi sta parlando, e ovviamente c'è anche il Bolognese Volante al di là del vetro che spinge cursori, alza cursori, spinge bottoni, strucca bottoni e poi guarda, risponde al telefono, insomma quante cose. Lei è un multimediale veramente, come si suol dire, praticamente è un tascabile, come uno smart, benissimo, un polipo. E siamo qui per presentare invece il singolo che aprirà la seconda parte. Ce lo dice lei chi è, regia? Ah, questo è facile. L'Iper Uranio con Esotica. Ascoltiamolo. Sto bevendo un mojito su una spiaggia tropicale, coi nomi altisonanti, cannucce fluorescenti, raggiungo il privé di un notissimo bar, masticando un kebab, dio che caldo che fa, e mi assale la voglia di Thai, sorseggiando daiquiri, forse vado a Dubai. E invece sono a casa e sto scrivendo le parole di una canzone, ma mi mancano le parole buone. E allora dammi, dammi, dammi, dammi. Dammi una città che sia davvero esotica. Dammi una parola che suoni proprio erotica. Dammi una città che sia davvero esotica. Vodka o Nululu, Madagascar, ma sono tipo da birra gin tonica al solito bar. Sushi, Caracas, Miami, Cali, ma vado fuori raramente preferendo i giovedì. E sono preda di un grande sconforto, mi accorgo che manco di quello che serve per essere un asso. Sono preda dell'uggia, io che vengo da Muggia. Mi assalisse la voglia di Thai, sorseggiando caipirinhe e volando a Dubai. E invece sono a casa e sto pensando alle parole di una canzone, ora mi servono parole buone. E allora dammi, dammi, dammi, dammi. Dammi una città che sia davvero esotica. Dammi una parola che suoni proprio erotica. Dammi una città che sia davvero esotica. Dammi una nazione che suoni proprio erotica. mi vengono da farle osservare due cose. La prima, sì, che questo signore dice che viene da Muggia, sì, e la, certo, seconda che a me ricordano in maniera esponenziale Subsonica. È un problema mio, lo ammetto, però. No, perché lui è nato a Trieste, si chiama Nicola Bertocchi, ovvero sia Iper Uranio. Inizia a suonare dopo l'adolescenza, cominciando a scrivere canzoni proprie, e quindi piano piano si è dato da fare con la musica, e poi ha trovato diversi produttori, e tra cui anche Ribalta Vapori, c'entra qualcosa all'interno di esatto, di tutto questo purpurri che abbiamo. E devo dire che anche nel nord-est ci sono tante così iniziative e tante cucine proposte musicali, visto, beh, certo, lei dice di no, ma insomma detto di Napoletti, lo dice lei. Poi abbiamo una grande come Lisa, abbiamo detto tutto. Effettivamente i suoni ricordano un po' quelli dei Subsonica, insomma, quelli elettronici, però insomma lui non è nuovo a queste sonorità. Tra l'altro c'è anche dietro qualcosa a che fare con i festival di film e di cortometraggi, quindi insomma diciamo è multimediale, e devo dire che queste sonorità ci piacciono, ogni tanto riemergono, ci piacciono, e devo dire che anche la canzone è ben o il testo è ben trainato da questa musica. Sì sì sì, ci sta tutto, e perciò vi abbiamo presentato Iper Uranio con Esotica. Questo è il suo singolo per l'estate. Corriamo, e a questo punto abbiamo Strati, ci presenta Oh Bella, ascoltiamolo. Non mi parli mai, e quando qualcosa va storto ti giri, mi guardi e non parli mai. Non parli mai. Se potessi riempiresti personale, non farmi riempire di personale. Non penso che tutte ste pare potranno mai farmi del male. E scappiamo via, ma per la nostalgia. Oh bella, bella, bella, bella, dimmi che cazzo rimane. Oh bella, bella, bella, bella, dimmi che cosa rimane. E cerchi sempre di calmarmi quando non riesco a pensare. Sono stanco di sti mesi di troppo, faccio storie e dopo un poco mi blocco. Quando sono a casa piango, riguardo ancora Django, e mentre lo guardiamo non mi senti manco. Sono strane queste robe che, come vuoi, sentire da solo qui con noi. Non lo so, dici boh, se ti chiedo cosa cerchi da me. Oh bella, bella, bella, bella, dimmi che cazzo rimane. Oh bella, bella, bella, bella, dimmi che cosa rimane. È che ti ho sempre odiata, perché sei l'acqua che rimane dopo un'alluvione. Ti riconosco perché rompi tutte le parole. Rimango sempre senza sogni, qua mi manca l'aria. Non ti sopporto, sei come un lenzuolo di seta che soffia e va via. Ma tanto per me sei bella, bella. Bello questo linguaggio un po' rap, un po' pop, così un po' urban per Strati. Lui si chiama Gabriele Privitera, giovanissimo cantautore catanese del classe 2003, dopo i primi buoni riscontri appunto avuti con SoundCloud, pubblica il suo primo singolo I miei occhi, inserito da Spotify nella playlist editoriale Scuola Indie, e devo dire che da lì si è potuto mettere in luce con avere poi dei contatti seri con il mondo discografico. Incide a questo punto con l'Aurora Dischi Publishing, che in questo momento sta dando molto ai giovani, un'etichetta giovane per i giovani, e devo dire che sta tirando fuori il meglio del cantautorato italiano, i personaggi più curiosi e più interessanti nel carattere della scrittura, e devo dire che anche questa volta ci ha preso per appunto Aurora Dischi. A questo punto lasciamo Prati. A questo punto viene a trovarci un grande. C'è un grande ritorno, un personaggio che non ha poi bisogno di grandi di grandi presentazioni. So che riconoscerete la sua voce. Ci presenta Mambo Tango e lui è. No, lo diciamo dopo? Diciamo dopo. Lo diciamo dopo. È tornato comunque. Ti porterò sul palmo della vita e allora qualcosa ci accadrà. La stringerò per dirti che è finita, ma il sole non lo permetterà. Ti prego dai, alza anche un solo dito per un anello che non ho qui con me, sperando che arrivi la ziadina. Da stamattina non chiedermi perché. Certo lo so che è una canzone scema, ma intanto il tempo passeva. Balli per me con la tua schiena nuda, ventaglio aperto, Neruda e voluttà. Chissà come nel mondo c'è chi rema, ma in porto non ci arriva mai. Rimane là sull'onda in luna piena e tu sirena per sempre ballerai. Com'era, com'era, com'era, com'era, com'era, com'era con me. Stasera, stasera, stasera la passi con me. Alberto Fortis a Easy Pop col suo nuovo singolo Mambo Tango. È ritornato infatti alla carica col suo nuovo singolo per l'estate, anche lui ha scelto un pezzo, devo dire fortissimo, ci sta, no? È proprio estivo. Alberto Fortis, classe 1955, il suo debutto discografico è del 79 con l'album Alberto Fortis, dove viene accompagnato dalla PFM, scusate se poco, e ottiene subito il grande successo, conquistando poi così l'affetto del pubblico che non l'ho mai più lasciato. Ricordiamo la sedia di Lillà, non solo, ma anche Duomo di Notte, Milano e Vincenzo, Settembre, poi tanti tanti altri. E poi sono 16 gli album realizzati in Italia, negli Stati Uniti e in Inghilterra, un disco di platino, due d'oro. E poi lui è conosciuto veramente tantissimi della musica internazionale, perché ha collaborato oltre che con la PFM e con tanti del mondo musicale italiano come Guido Elmi, Claudio Fabri, Lucio Fabbri, ha collaborato con Jerry Buckley degli America, ma non soltanto, ha conosciuto Paul McCartney, Yoko Ono e poi anche regista Wim Wenders. Insomma, sua vita è veramente impressionante, e non per questo lui è anche l'ambasciatore ufficiale dell'UNICEF per la tutela dei bambini e delle popolazioni native americane Navajo, anche perché lui praticamente ha avuto un suo album tutto sonoro, tutto dedicato agli indiani d'America. Ah, devo approfondire qua. Ma insomma è un personaggio, noi abbiamo veramente dei personaggi grandissimi che forse veramente anche i network dovrebbero approfondire. A questo punto abbiamo ancora un po' di tempo per ascoltare Leonora featuring Korma. As a Rock General ci presenta Randagi, poi vi parlo di questo progetto. Se questa storia fosse come una clessidra, la capovolgerei per un'intera vita. E la paura di stare lontana da te sarebbe solo un granello di sabbia nell'oceano del bene che ti voglio. Ho scritto mille volte il tuo nome sul foglio. Sto cielo non mi dice niente se non lo guardi con me. Siamo con lo zaino in spalla, pioggia sottile sulla pelle, in sottofondo le zampogne. Sulle colline irlandesi di conifere millenarie, il tuo profumo via. viaggia con me. Baci al sapore di caffè americano, sorridi in un weekend con l'oceano sullo sfondo, io ti seguo in capo al mondo. Dormiamo nudi in un B&B, temporali fuori dentro i tamburi, e tu mi chiedi come sto, così bene che il mio cuore batte come fosse un overdose. Girano, girano, girano le tue parole nella testa come in una giostra, le fotografie, l'odore del mare, il sale, la pioggia che non smette di cadere. Passa il sapore di caffè, finiamo in un motel, poi sul telone a guardare le stelle. Giriamo nel weekend, in tour come una band, un altro tatuaggio sulla pelle. Il sapore di caffè americano, sorridi in un weekend con l'oceano sullo sfondo, io ti seguo in capo al mondo. Dormiamo nudi in un B&B, temporali fuori dentro i tamburi, e tu mi chiedi come sto, così bene che il mio cuore batte come fosse un overdose. Lino Ram featuring Korma as Rock General, Randagi il pezzo. Lei in realtà si chiama Eleonora Salesi, è un'interprete nata ad Aprilia, piano piano si avvicina al Teatro Sistina e comunque all'Accademia Internazionale dei Musical a Roma. Piano piano insomma entra in quel circuito musicale insomma che ruota intorno al teatro e alla musica, una sorta di fame, saranno famosi, e incrocia anche i Korma as Rock General e hanno così deciso di incidere all'interno appunto di questo progetto, questo singolo che fa ben sperare, no? È molto estivo, molto spumeggiante, quindi l'abbiamo voluto suonare e selezionato qui dalla nostra regia e adesso, ovviamente dalla nostra redazione. A questo punto altra chicca, altra chicca musicale, ritorna anche lui al piatto numero 2, non lo annuncio nemmeno. Non l'annunciamo, no. Niente, ve ne accorgerete sicuramente dalla voce chi è lui. Anni 80 in piena. È come l'ultima volta che tanto non ci vediamo più, c'è sempre un motivo per tornare, e quel motivo che ho in testa sei tu. Andare, restare o partire, neanche la luna stanotte è sincera, e se penso adesso quanto siamo soli in mezzo alle luci del sabato sera. Ho tanta voglia di te ogni notte e sempre, ho tanta voglia di te ogni istante e fino in fondo, oh, e non me ne rendo conto, ho tanta voglia di te, ma non te porto a scompiglio, qui l'imprevisto sei sempre tu. Differenza tra dire e amare, o è solo un gioco di ruoli in più. Tentare sparire o restare dentro un abbraccio che non ci incatena, ma se penso a quanto siamo stati soli, un'ora per sempre o soltanto una sera. Ho tanta voglia di te ogni notte e sempre, ho tanta voglia di te ogni istante e fino in fondo, oh, e non me ne rendo conto, ho tanta voglia di te, impossibile non riconoscere queste sonorità anni 80. Raff con 80, proprio scritto 80, voglia di te. Effettivamente è così. Io ricordo invece di un album 80 e basta di Ivan Cattaneo, quello era Ivan Cattaneo qualche tempo fa, ma in effetti questa voglia di 80 voglia di te è proprio un quid, uno spirito che uno ha o non ha. 80 voglia di te praticamente segue la scia della retromania di una cultura che ha cambiato sicuramente la nostra società e che stiamo portando avanti anche io soprattutto. E mi chiedo perché io non possa scrivere un libro magari sugli anni 80, su come la vedevo io, come ho vissuto questi anni 80, perché me lo chiedono in continuazione, visto che tutti pubblicano, perché no? La mia casa è un concept album di Raff, è un libro anche, perché è uscito per la Mondadori il suo libro in contemporanea con l'album, ed è anche un tour, perché la mia casa è praticamente un tour che vedrà protagonista proprio Raff, e quindi lo vedrà proprio in strada, proprio in tutta Italia e non solo, per presentare questo ultimo singolo e poi il suo nuovo album. Complimenti, ha fatto centro anche questa volta e bentornato a Raff. Detto ciò, regia, corriamo e abbiamo ancora qualcosa di... Abbiamo recuperato. Ok, mi dica lei, io adesso seguo... Adesso invece passiamo dalle sonorità degli anni 80, sì, di lei ben conosce, sì. Le sonorità, certo, alla sophisticated music di Papik featuring Nicole Magoli, Monte Carlo. Mi ha detto che questo brano starebbe già andando sulla di Monte Carlo. Tanto è chiaro che un brano che si chiama Monte Carlo non può non andare sulla di Monte Carlo. Però quello che volevo dire il io. Qui dice che esce il 25 maggio, quindi. Sì. Ma ci sono sempre le anteprime, c'è sempre chi arriva prima, ecco, perché sappiamo, no? Sappiamo che qualcuno è più figlio di un altro, e quindi così. Però questa è Monte Carlo, Papik featuring Nicole Mogoli, due artisti che appunto sono in collaborazione tramite una raccolta di album che conterrà 10 brani di inediti, ovviamente, da sapore un po' hip hop, soul, jazz, dance, no? Un po' molto lounge, come piace adesso, proprio da ascolto, da sottofondo. E devo dire che l'unione fa la forza, in questo caso un'ottima accoppiata. A questo punto, velocemente, corriamo, e abbiamo ancora una nuova uscita discografica per quanto riguarda un cantautore bolognese, vero? Lo facciamo partire subito. Graci. cielo è una palla d'oro, ali di uccelli si alzano in volo, solo una nuvola dentro di te. Non piangere bimbo, non piangere, non piangere bimbo, non piangere. Il mare stasera sembra pezzi di specchi, schizzi di schiuma sopra i tuoi occhi, lavano lacrime, lasciano il sale. Non piangere bimbo, non piangere, non piangere bimbo, non piangere. Se tutto brucia dentro al tuo petto, per troppi torti ricevuti e mai restituiti, ed il silenzio farà rumore per chi ha creduto che potesse essere in vendita al tuo cuore, in vendita al tuo amore per il successo. La luna stanotte si specchia nel mare e sembra che dialoghi con le lampade. Nell'aria bonaccia, ma poi la tua faccia. Non piangere bimbo, non piangere, non piangere bimbo, non piangere. I borghi e gli scorci di mille colori profumano gli alberi, boccioli e fiori, insetti nel vento, c'è un cane contento. Non piangere bimbo, non piangere, non piangere bimbo, non piangere. Se tutto brucia dentro al tuo petto, per troppi schiaffi ricevuti. Non piangere è un brano che insomma elogia tutte quelle persone che non sono in vendita e che si danno da fare per raggiungere i propri obiettivi in modo meritocratico, che insomma rifiutano qualunque tipo di presunto successo se questo dovesse comportare il dover vendere l'anima al diavolo. Ottima lezione di vita per quanto riguarda Bracco di Graci, Non piangere, suo nuovo singolo per l'estate, e mi sa che lo suoneremo molto molto. Un bentornato a lui, e anzi a proposito anche per quanto riguarda Bracco di Graci, c'è una bellissima intervista in cui abbiamo sviscerato proprio il nuovo lavoro di Bracco di Graci, il suo ritorno dopo anni alla musica italiana. Ci racconta quello che è successo e i suoi pareri e come è cambiato il mondo musicale. Vi invito così ad andare nei nostri social e guardare, ascoltare soprattutto cosa ci ha detto anche Bracco di Graci. Detto ciò, regia, velocemente, cosa abbiamo ancora da ascoltare? Questo periodo di remember, ovvero di ricordi, non poteva mancare un disco vintage del 1976. Io ero piccolo, Andrea True Connection, nelle prime radioline private di quegli anni, cantavano Moa, Moa, Moa, e ovviamente anche nelle discoteche per chi ci poteva andare, ma io ripeto, ero ancora troppo piccolo, ero minorenne. Sì, io ho vaghi ricordi di questo sound che ogni tanto si ascoltava nel così nelle pre-serata disco, i DJ mettevano insomma in attesa di, quindi tu eri là, ascoltavi questa cosa in attesa appunto dell'inizio della serata. Su questo brano saluto Ricky, ma tutti di Palermo, che ci dice che siamo bravi, grazie Ricky. Ma salutiamo tutti e tutte coloro che ci hanno ascoltato in questa oretta, che speriamo di aver fatto trascorrere in allegria e spesso. Certo, Marzia, Fedora, chi c'era ancora qui ad ascoltarci, Rita, ma insomma tutti quanti volenti o nolenti, grazie per aver avuto pazienza di seguirci fino a qui, ma poi ci sono anche gli altri programmi musicali, vero? Assolutamente, vi lasciamo la programmazione di Radio Città Fujiko, che fra una mezz'oretta prevede le corrispondenze di Dani Corauci, a seguire Amalia Picella con C'era una volta l'West, rubrica di approfondimento cinematografico. Detto ciò, Franco Poletti si congeda, vi augura la buona domenica, buon proseguimento appunto di serata e soprattutto buona settimana a voi. Ci sentiamo, anzi ci ascoltiamo domenica prossima. Bye bye dal Bolognese Volante e da Franco Paoletti, bye bye. Avete ascoltato Easy Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. お力だ、鋼鉄神宮。